Pepe, hello Pepe. Pepe, bueno Pepe. Avanti, chi è? Pepe, freddo nai. Chi è avanti? Pepe, freddo nai, caldo nai, aiuto. Chi è, chi è? Sei un bambino. Non ti copio. Non mi copi? Granziano, chi sei? Avanti. Mi copi adesso? Non ti sento. Opa. Hola. Graziano, ci sei? Eia, ciao Leonci, mi copi? È forte e chiaro, e tu mi ascolti, sì. Già ti copio, però un po' disturbato in mezzo al QRM. E dove sei, in cucina? No, sono a Monteoro. A Monteoro? E dove ci fai? In campagna. Cazzo, a Rustende, no? A Sette Carasce, no? Creo. Oggi sì, mi toccava. Cazzo, con questa bella giornata, e cosa fai? No, non vai in campagna a rotire, no? Ogni a tanto. Con questa bella giornata oggi andava bene. Benissimo, un bombò. E cosa ti sei trafogato? Un po' di tutto qua. Pancette, pettine di cavallandondolo, melanzane, peperoni, gamberi. Un po' di tutto là. Le altre volte bella la pancia, crocro, e poi ti lamenti che ti intende male, mi hai compreso? E allora mi mangi un burro di caffè a chi lo si vuole apparare, poi dolci, dolcetti, pasta, pasticcini. E più ce n'è più una metà. E allora qualche digestivo, un amaretto. Cosa vuoi di più? Niente, già andare a vasso con la faccia al sassoli, a panta all'aria. E te ne appunti, mangiato, bevuto e me ne appunto. E già lo credo, al sole si sta bene, all'ombra si sente già freschetto, però. Oia. Io non ho sentito Gio Maria, deve essere ancora coricato. Io stamattina, prima all'ora di pranzo, ho sentito Antonello Pomponio, a Giulio, e c'era anche Bacchiglio, però non lo copiavo io, anche Marino, però non li sentivo allora. Vabbè dai, ti lascio a divertirti, dai. Buon divertimento, dai. Eia, ciao, alla prossima, l'ho accesa adesso, mi avesse c'era qualcuno. Ok, ciao. Ciao. Chi sei tu, Antonello? Sì, sono io, in carne e ossa. Sono su 14 sul telefono, dai. Entra pure tu. Sì, adesso entro sul telefono. C'è Giulio, tu, dollaro. Ok, sto entrando. Avanti! Infannau! Usa Boku! Bosco! Grazie! Mi sono rientrato dalla campagna 10 minuti fa! Bella giornata oggi! Pure io ero in compagnia! Ciao Giovanni! Ciao Lombardo! Buonasera! In campagna era Ruggero di Graziano, così arrucchita io. Piedi tranquille. Tutto volo, pancetta, biscecchi, gamberi, peperoni, melanzane, Fettine di cavallatondolo, gnocchetti alla sarda, col suo arragù, di tutto, dolci, dolcetti, pazze. Ah, c'è vero. Ah. Capare di non mangia, Giovanni, uscire. Non so, cazzo, non vorrei farne, cazzo. Oh. Ma ci ho fatto una busta di zea, di bietole, di campagna, a tennara, a tennara. Buona vita, domani, frittata. E impara paura, dai. No, a Salagi non ci sono andato. E ancora, ma pensi che ancora stiamo scendo gli asfalti. Non è tempo, no. Già ci sono, pochi ma ci sono. Noi l'abbiamo già fatti la settimana scorsa. Ci abbiamo fatto la pasta asparagi, panna e salsiccia. No, io ho ancora asparagi dall'anno scorso. In freezer ce l'ho. E tanto per domani, tanto per... non mi deve regare a mangiarmi. No, io se mi riparo un pochino di frizzo di taglio, così mi aggiungo a fronte. Sono fortunato che questo entra al tagame a farli cucinare, capito? E beh, grazie. Cioè, ti sei assoliato allora. Stavo parlando un po' con Giulio, con Leoncino, con Antonello Pomponio. Oh, prima di pranzo e anche di pomeriggio un po', e poi mi sono salito poco qua a chi non so risinirare e senti di aiare brecchitto. Non ti ho sentito per niente. Caspita, c'ero dalla 1:15 e poi stavo sempre parlando con Antonello, Giulio, che stavo facendo il fuoco. E si cagliava. Sì, già lo credo, oggi è una bella giornata. Ma la sta facendo tutti i giorni, questi giorni sta facendo belle giornate. Sembrava in primavera. No, è la verità, di mangiare un paio di mandarini dall'albero, belli freschi, freschi, ghiacciati. Niente. E abbiamo mangiato questo, mangiato bene, però poi verso le 5 e qualcosa di taglia io piglio il traschino che intendo già la rietta. E infatti se ti va già il fraschetto, anche se ti metti via al sole, oramai quel tempore non si senti qua più. E allora me ne sono cazzato ed è andato in su. Infatti per un freddo va pure. Vabbè, come ti sei tra un sole, comincia a fare l'oritore e la iazza, e la griglia. No, fino alle 4, alle 5, alle 5 e mezzo si stava bene, no, a voi no. No, infatti abbiamo mangiato pure a faccia al sole, con la banca della veranda, l'abbiamo buccia pure, era un piazzale, e si stava bene. Pranzando a faccia soli, capita, poi era né caldo caldo né freddo, si saziava, poi non ve la manco un filo d'aria, un bombo, proprio bella giornata. E tu, lui, in casa, comprendi? Sì, vabbè, stava fuori, stava bene fuori, poi eravamo dentro, con la stufa accesa, abbiamo pranzato, e poi ci siamo... Vabbè, io alla fine mi sono ancora riposato perché abbiamo pulito la macchina che è dentro e fuori e niente. Comunque già va bene, dai, poi ho fatto un po' di aranci, un po' di mandarini. No, io non ho fatto, ne ho qua, se non mi si guarda. Ah va, sabato, ma ne arriva un centinaio di pedane. Un amico mio col camion me li deve portare. Sabato al limite mi rivolto un poco d'arancio, un poco di mandarino. E niente, già si sta va bene. E cosa ti rimane di pedali, a fuoco? Le ha cattato per il camminetto, per quando accende il fuoco. E poi tra il tuo casa gli avvira la stufa accesa, a pellet. e dentro casa di mia cognata. La mezz'ora c'è per un camminetto, ma non ne abbiamo acceso, dato che era una bella giornata. Abbiamo pranzato all'aperto, capito? La sentano, li posso accettare da miei nipoti. Quando ci servono accendere il fuoco, anche per il camminetto qualche volta, per cucinare, se sono pedane pulite, mica sono pedane brutti. Mica legna bettimi quella, ad arrivarci i barrucchi. Invece buoni legna grossa, si può fare più veloce. Poni di pedane, a voglia che la basi la braccia, arrucchi, sono pulite le pedane. Sono pedane della... di quelle che usi nei capannoni, no, i pancali. Ce ne sono un bel di volte nuove anche. Quelle le vendevano allora, io mi ricordo, a Porto Torres, dove le fabbricano, 10.000 lire erano, adesso non lo so quanto costa. C'è un sacco di gente che ce li vende. Ma io li trattavo il buco, a me mi li dati, il camico mio. Ogni tanto mi chiama, mi luigia, arrivo e arriva, mi resti in arrivo un centinaio e arriva e ci ti piace. E allora Filippo, me li regala? No, sono amici miei che stanno ancora lavorando, autisti, no? O in ditte grosse. E mi chiamano, me lo dicono, io li ricarico a me. Vabbè, vai, mi paghi il viaggio, neanche. Niente, ogni tanto faccio una seminata, gli invito, ho una bisteccata, così, e vengono con le ragazze, che c'è la ragazza, con le mogli, capito? Faccio così una cenetta di sabato sera, di domenica a pranzo. E loro vengono, io li invito e loro vengono, senza riga nuda. E sono vecchie, ma devo stare cinta tutta da reggio, da minibus, piano piano, già se la senta reggio. E la piga non ricevi, lui ne taglia un po' e le ha già tagliate, capito? Perché le adopera anche lui, quando scende che non ci sono io per dire. Spara una piscina e si deve arrucchi una cosa, buone chi si, capito? Prega. Sempre di mio marito. Beh, ha detto la verità, ho mangiato leggero, ho mangiato una tisina d'agnello e una fetta di melanzane fatta in forno. E una pera, boh. No, non è una roba pesante, per cui sono stato bene ugualmente, dai. Ti lo senti cosa mangiare? Grazie a mangiare un gruppo di cose, la puoi dare un poco a poco, ragazzi. Io non abbia altro, ragazzi, ma se no non abbia gusti, ragazzi. Adesso ho pensato a che cosa Gio Maria, che poco di gamberoni, come ci siedo. E fecero tutto quello che ci può mangiare. E devo morire di fame, cazzo. È sicuro, è pigrito. Ma non è che immagino mangiato di tutto. Ho assaggiato di tutto. A mangiare non immagino mangiato un po' di una panzetta, una bicicca, di gamberi. Li ho assaggiati. Una ventina me l'ha già mangiata in tria. Di cavallo. Ma l'altro lo sono assaggiato. E cosa so qui? Un bidone, no, non saranno. Ma sarà. Chi è questo bimbi? Ma chi tu sei? Tu ce l'hai, grazie a Bibi. Non ne ho io Bibi, già l'ho sentito, non lo so chi è. E anche una tazzetta di vino bianco già me l'ho bevuto, di quello docco. Era ammazza caffè o te l'hai preso? Caffè, ma di giri bambina di briate lui, no, ammazza caffè non ne ho voluto. Visto, quello che ci voleva lo trae bevuto. E tu a casa eri tu? No, capace. Ah. Oggi è la giornata di campagna, dai, in campagna stava bene. No, io sono uscito. Nulla, mi ero fatto tutta la mattina in giro. C'era che il bello c'era stamattina. Stati illusori, chiacchierato più di me, mi è marciato verso mezzodì. E aveva ammazzato il tromandano così, va. Ah, ho capito. Alice, a casa tu? No, giù in strada, la dare da me, ieri. Sì, c'era Antonio Farina che stava ponendo un pezzo di giardino e c'è un muchaccio alla mezza. E da 10 minuti si è uscito un paio d'ore in più. Che vuole andare avanti? C'è qualcuno che vuole entrare, vabbè. Già va bene, faccio vecchia, che io sono un po' stanco, Poi appena arrivo a casa io ho un computer da terminare. Ehi, ma vediamo un po' se c'è Tore o Bacchisio. Tore, Bacchisio, non c'è nemmeno, Bacchi. Allora mi sono sbagliato, Lui, hai visto che mi sono sbagliato? Ah, buonasera, Bacchi, ben sentito. Hai sentito a Graziano, sta roba che sta mangiando giù in campagna. E noi moriremo di fame. Oh, Bacchi, scusa, non ti ho copiato bene, veramente. A momenti ci capivo un attimo. Cosa ha detto lui? Tu sei più vicino. Ha detto che stava provando quell'antenna che ha fatto. Io l'ho sentito bene adesso. E ti ha chiesto se l'hai sentito, se lo sentivi bene. Ciao, Bacchi, io ti sento bene qua. Gio Maria ha detto che ti sentiva un po' a tratti e Luca non lo so, lo stesso penso. Vai Gio Maria. Sì, perché la radio è bassa, capito? È un bel bassa la radio. E non posso sollevare molto il volume perché da a chi? Da tu, da te. E Luca, ma chi gioca, ve l'ammisso, capito? Ecco magari, però dovrebbe arrivare bene ugualmente perché non siamo molto lontano. Fa un'altra prova, ma chi? E adesso ho aumentato il volume e ti ho sentito perfettamente, però è al massimo, ti puoi immaginare. Adesso se parla Luca devo dimezzare, capito? Ecco tu, però quant'è di stazionare che c'hai? 1,38. E allora non bisogna azzardarsi molto, vabbè, se sono passaggi corti non dovrebbe succedere niente. Però secondo apparecchio che è molto pericoloso, capito Bacchi? Sì, continuo la volo. Ciao Luca, ciao Graziano, ciao Maria, tutto bene, ci vediamo fra un po'. Ok, ripeti Luca. Ciao Bacchi, a dopo, va grazie. Ok, d'accordo, Bacchi, certo, se cerca di regolare bene, ragazzi, che sono troppi così stazionari. Spero ci sta arrivando adesso Luca. Sì, però arrivi benissimo Giovanni da me, perfetto. Ecco, ogni tanto c'è qualcuno che vuole entrare, un po' si disturba. Ah, vabbè, qualcuno magari faccia delle prove, però se ci siamo noi no, non è giusto che chiedi un break e fai la prova, no? Allora ti sembra. Esatto. Grazie a Barretti a me. Però io a Bacchisio, in genere lo sento con la radio messa orizzontale, per sentirlo bene invece lo devo mettere orientale, cucata la radio. Se lo metto verticale lo sento a tratti, se lo metto orizzontale lo sento bene. Dunque, quelle stazionarie che c'ha disturbano molto, dunque le deve cercare di regolarle di più, se è possibile azzerarle di meno, un bel di meno, capito? A me ho fatto le prove adesso quando stava parlando, dritto arriva a tratti, lo metto orizzontale, coricato mi arriva bene, capito? Adesso mi avete annunciato le stazionarie, adesso me li misuro io, vi chiedo un attimo di correggersi che attacco tutto e vediamo un po', voglio provare anche l'antenna mia, insomma, a vedere un po' com'è, dai, tu riprendi soltanto. Eia, eia, avete mangiato Trento, Luca, con solo che c'era in campagna. Vabbè, abbiamo mangiato dentro perché si stava meglio dentro. No, noi abbiamo mangiato pure, si faceva un bel bel puro. Non ce n'era né venticelle né nulla, aveva il sussurri, usa giù, già ti caldi ave. Poi a parte in sera ha cominciato a diminuire il calore e sentiva un po' l'arietta freschetta. Però all'ora di pranzo, io parlo dalle 2 fino alle 4 e qualche cosa si stava bene. Vabbè, ma si stava meglio adesso, là. Beh, dretto gli accettati a vero matte, ci danno un vera brula, tu fa pelle, si accetta. Fino a un forro, dretto. Vabbè, già è stata bella giornata. E poi era bello perché ancora non ci sono mosche, capito? Luca! Che è? Che io sono. Bene, ti sto arrivando. Un po' frusciato, sito. Ti ascolto, ma c'è sotto a fondo di QRM sotto. Perché sto usando l'antennino messo dentro casa che l'ho messo a posto. Vabbè, dai, già parlo con l'altro. Eia, comunque io ti ascolto, non c'è problema. Sicuramente che Graziano ti sente, avanti grazie. Ma lo sento fruschiato e basso un bel basso. In genere lo sento bello forte, pippante, un bel basso. Perché sono con un antennino sono. Eia, però si sente a sottofondo, ha preso la tua modulazione e tipo che ha preso un sacco di rumoretti, sembra cosa strisciando. Un attimo, grazie, un attimino. Ok, riprendi, grazie. Eia, così è. Beh, Luca, e poi cosa hai fatto? Niente di niente, al paradiso se ne sei andato. Abbiamo lavato la macchina. E anche mia figlia ce l'ha lavata la macchina. Niente, è stato un baciamba oggi, già è andata a vera, già. Meglio approfittarne quando fa belle giornate. E mi sembra che c'era anche Baschisio stamattina, io non l'ho sentito però. Mi sembra stava parlando con Antonello e Marino pure, però non l'ho sentito a Marino io. Giulio, con Giulio stava parlando. Io in campagna me l'ho portato appresso il portatile. A dire ci avessi in tenna il cacchierino. E ho sentito Antonella, abbiamo chiacchierato un po', Giulio, Eia, e niente di che. Io stamattina poi sono a casa la mamma. È un'altra di passata, così è, Andava. Andava sì, tu mangi una giugana, mi avvicino a vedere, lì se fanno la scheda elettorale nuova, perché non ci stanno più voti, timbri, e dunque la devo fare nuova alla circoscrizione, prova a chiedere. Io dai piazza Santa Caterina, guarda, io ne ho due, dove poi dove l'avevo messo, me l'ho fatto per l'altra ancora. E ho ritrovato quella che avevo perso e quella, cioè questa, ne ho due comunque, dai, a voglia. Ma no, è tutta piena di libri, di tutte le votazioni che c'erano quando andavo a votare. Non mi ero mai capitato, l'ultima volta che sono lavorato mi ha detto lei la deve fare nuova, perché qua non ci stanno più i libri, la giustizia quando ha più tempo andare a voce. Dunque, me la devo rifare. Ma penso che me la facciano qua alla circoscrizione, la scheda elettorale. Grazie. Grazie. Sempre comune qua la circoscrizione. Mi fonde una tessera con un nome e cognome buono. E ricopia il numero della matricola che c'è, di quella che ho adesso, e penso me la faccino qua. Grazie. Ehi, dimmi, tu. Non ne fanno lì, sono già andato anch'io l'anno scorso. E non ne fanno lì, la fanno solo in piazza Santa Caterina. Hai compreso? Su all'ultimo piano. Via Santa Maria, al comune. No, oh, piazza Santa Caterina, vicino al comune. Ehi, dove c'è Santa Maria? Che sta lì che c'è quella piazza grande, lì, che c'è l'ufficio comunale. No, piazza Santa Caterina, piazza Santa Caterina, dove c'erano prima tutto gli uffici e tutto quanto, lì al secondo piano. Ah, piazza Santa Caterina, dove il comune vecchio. Eia, lì per il comune vecchio, vicino al Palazzo Ducale, lì devi salire al secondo piano, ufficio elettorale. Ah, dove c'era prima, dove andavo tanti anni fa prima al comune a fare certificati lì praticamente, e non al comune proprio o Ducale. Dove Ehi, lì devi andare al secondo piano. E vado lì. Beh, strano però, a chi dici di andare già le buttazioni? Ti dici se per caso non l'hai smarrita eccetera eccetera, puoi andare in qualsiasi circoscrizione e te la fanno lì. Beh. No, solo all'ufficio elettorale devi andare se non ce l'ha, devi andare all'ufficio elettorale, no alla circoscrizione, circoscrizione non ne fanno. Un attimo, dottore. Ehi, Gio Mari. Un attimo, mi sono portante, sono misurato le stazionarie. Una sette, dai. Una sette, grazie, riprendi tu. Ehi. Io comunque sono riuscito, l'ho portata a uno. Ehi, anch'io dovrei farlo così, ma adesso non ne ho Puglia, là. Ma va bene anche così, altro non è che già facciamo passaggi corti per quel tranquillo, dai. Una volta cosa vi sia, non è quasi niente, questo. Va bene, ok, riprendi. Ehi. Riprendi, grazie. Ehi, e allora ando direttamente a Givi, al comune vecchio. E vabbè, perché non ci stanno più timbri, capito? E l'ultima volta che sono andato a quelle votazioni mi ha detto devi farmela nuova perché non ci stanno più timbri. E ha detto vabbè, quando ha più tempo andare a farla. E me la giuvata l'hanno abbassata la giuvata. Quindi, e sono salito lì all'ufficio... su al secondo piano, ufficio elettorale. Sì, andi, riprendi Luca. Luca deve essere, sta facendo cosa? Riprendi tu. Sì, hai capito, io stavo provando l'antennino che ho fatto con la carica della 27. Quindi le uso tutti e due. sono riuscito a metterlo a uno di stazionari. Però ti sentivo basso e come a sottofondo ti sentivo rumori ti portava appresso. Sì, perché c'era dentro casa e dentro la camera, quindi no, non c'è cosa di farlo uscire, è compreso nella zona che sono, sai che c'è molto, è in basso, buru. Dove sei adesso non la puoi provare, no? No, la lascio così, un altro momento la provo in macchina, a vedere quando vado al campo giù con mio nipote a San Giovanni, la provo da lì. Anche la puoi provare anche quando va al campetto, la buoni e fa le prove. Vediamo se Marchigio ha finito. Marchigio, ho terminato. Chi è che vuole entrare? Non sta riuscendo, io non sento a nessuno. Dottore, tu hai sentito qualcuno? Oh, non lo so, c'era questo che stava provando. Aspetta un secondo che devo provare l'antenna, 2 secondi. No, oh, tu non provi nulla, devi bagare se vuoi provare. Ciao, ho staccato la X300, adesso voglio provare l'altra, a vedere se funziona bene. vediamo un pochettino. Ciao, Pomponia! Ora mi assento 2 minuti. Sì, già sono qua. Chiamate per quello, già sono qua. E io? Anch'io sono qua. Dove? Signor Gianmarì. Com'è la radio? Buona. Normale, come sempre. Va bene, allora, ok. Chiudo tutto qua, allora, vai, rientro dopo. Sì, ok. Ore. Dimmi. Aspetta che faccio l'inversione di antenna, 2 minuti. Siccome ho messo la un'antenna diversa dalla X300 adesso. Fa tutte le bande. Aspetta un secondo, tolgo la direttiva e aggancio l'altra, la verticale. 2 minuti ti chiamo, là. Sì, sono qua, Antonio. Ore, signor Tore, signor Tore, signor Tore. Hola, attenzione, Tore. Ehi, Abacchi, dimmi, dimmi. Ah, già, sto uscendo. No, sto provando il microfono. Capio, ho cambiato il microfono in quella radio, per esempio, se funzionava meglio questo. Mi senti più bene degli altre volte o un piccio? Sempre un mattessi. Sempre come prima ti sento. Normale. Buono, è tutto. Da Benevento. Ehi, no, perché mi hanno suggerito di cambiare il microfono, ho cambiato il microfono, ma non abbiamo risolto nulla. Andrà bene. Allora, adesso ne ritiro tutto sul tavolo, perché mi sono rotto i piedi. Da 1,80, 1,70 non riesco a farlo scendere. Ehi, allora, ma questione di quanti metri di cavo ci hai messo? Non è pianificato, questo è normale, normalissimo. L'antenna stavo parlando, lo stavo facendo, mi sono rotto, adesso lo chiudo. Ehi, fa così allora. Conviene buonirgli un cavo da 2,5 metri e fai prima. E vedi che ti vara. 2,10 l'hai fatto? Oh, un attimino, Antonè. Cos'hai detto, Bacchi? L'hai fatto 2,10. Ah, 2,10 l'hai fatta. Allora va bene, però è lo stilo? 4,50 ho di cavo. 50 allora devi scendere un po'. Sì, adesso, domani, oggi basta. Oggi ho fatto anche troppo. Adesso ne ritiro tutto e poi riprendo a modulare. Saluta dottor Stranamore, salutamelo. Tanto non mi ascolta a me. Dottor Stranamore, mi ascolti? Antonè. Ehi, dammi il controllo, come sto uscendo con quella multibanda adesso? Col discona, meglio o peggio? Dopo se l'ho mangiato, dai, ritiro tutto, ci sentiamo pronto. Ehi, mi hai modulato a Battisio, non ascolti tu, no? Comunque, di radio sei a fondo scala. La radio è buona. Quindi funziona bene l'antenna. Ok, meglio così, sono contento. Ho messo la verticale. Adesso domani stacco la direttiva e non me ne faccio un tubo a un certo punto. Quindi basta la discona, fa la un sacco di bande, 29, 40, 40, 45, quindi a un certo punto se la piglia in culo, questo punto va benissimo, quindi segnale fondo scala e la radio è buona. Sì, anche forte come radio è. Meglio così, sono contento. Meglio della X300, già l'ho staccata la X300, poco, due minuti fa l'ho staccata, sono andato al buio, giù staccata, allora fa culo, non devo stare con dei lavandini, quello va bene solamente per frequenza delle moto, invece questa qui fa da un sacco di frequenze, fino a 1300 arrivo, quindi figurati, è della Midland. Quanto è della Midland? Sarebbe? Multibanda, multibanda parte da, non mi ricordo se parte da, devo controllare, fino a 1300 comunque arriva, fa anche la 27, la 29, tutto, 45 metri, tutto, non devo stare a sventiare. Quella che c'ha un sacco di stilo. Ehi, c'ha i radiali orizzontali piccolini, i radiali orizzontali lunghi e lo stilo. Sì, ce l'ha bacchigio anche quella, mi ha detto che non andare a mancarruccio. Eppure a me funziona, l'ho provata e funziona quella che sto usando io, quindi figurati. E boh, andare anda. Va benissimo. Ma dipende anche dalla zona come si. Comunque, se vedo che mi ascolti in fondo scala e anche segnale forte, quindi vuol dire meglio della antenna, lascio questa e sono a posto. Come una cosa, è stazionarie? Zero ne ho, non mi segna niente di stazionarie. Non te ne segna stazionarie? Nulla, niente. Ma andate e andate. Un bijou anzi una bijou non un bijou, è una bijou più che altro. Antonello, non l'ascolti, grazie. No, adesso no. Strano, che arrivi forse a me e a te non arrivi. Oh, Antonella, mi sì. E no, senti nemmeno io sto. Ma ti mai, boh, a me mi arriva a fondo scala, mi arriva. E con la radio forte, e a te non, a voi non arrivi. Antonella, a Gio Maria non lo ascolti, neanche a Graziano. Beh, se parlo con Gommino per forza non li ascolto, hai capito il discorso è quello. Io adesso ho un'antenna nuova, quindi il problema è loro. Se non sono con l'antenna esterna non li sento. Se parlo con Gommino, a meno che non si mettano dalla parte mia, il discorso è quello lì, non è, roba, non è colpa mia, no? Oh, se sta parlando non lo sento, nulla, nulla, nulla, Se siete con il Gommino, maestro non vi ascolta, perché ha messo quell'altra antenna nuova, con l'antenna esterna solo vi ascolta. Ma dove c'è l'antenna? Dentro casa? L'antenna, quella che stavo provando? No, fuori ce l'ha, sono tanti stilo che c'ha fuori, e con questa dice che a me arrivi a fondo scala, boh, forse perché c'è l'antenna fuori. E se non lo senti nemmeno graziale, per immaginare, nulla, nemmeno segnale arriva, non lo sento per niente, nulla, nulla, nulla. Boh, con lo stilo no, mi ha detto che con lo stilo non ti sente neanche lui. Oh, no, no, vale cambiare posizione, vero Graziano? Anche io l'ascolto, to, nulla, zero, riporto zero. Adesso ti sento, ecco, vedi, adesso ti sento. Stavinata. E boh, è una frequenza che non mandava a me. A chi? Dimmi, Gio Maria, buonasera, avanti. Adesso gli altri sento, basta però gli altri sento, ma poc'anzi nulla, nemmeno segnale. C'è la stazionale con l'antenna, è piena. Neanche a Tonello io adesso sento, nulla, zero, riporto zero. La radio, la, il segnale è a fondo scala, però la radio, forma il segnale, la radio è molto bassa, vai grazia. Io non ho sentito niente, niente, poco fa lo sentivo, adesso niente, nada di nada. Questi sono gli occhi di questa frequenza, capito? Per carità, secondo me magari quello lo sente e l'altro no. Oh, a me arrivi a fondo scala, ma arrivi a forse con l'antenna di fuori non ricevo forte. E guarda adesso questo microfono, se ha cambiato qualcosa, Giovanni. Adesso ti sento, adesso sei bello pepante. Ho cambiato microfono. Ho cambiato microfono, vuol dire che questo è il suo. Andrà bene meglio, dai, continua a ritirare i ferri, che sto facendo operazioni e dunque ho un'operazione in corso, però la sospendiamo e continuiamo domani. Eia, eia, riprendi il tratto. La ola, ola. Fuori. Eia, eia, Giomari. Grazie. Sì. No, io... Ah, Antonello, lo sentivo fortissimo, a fondo scala, è radio, è la radio forte anche. Poi già che fa anche dalla ricezione, ma io dovrei sentirla bene perché l'antenna ce l'ho esterna, per cui dovrebbe arrivare benissimo, capito? Mentre che no, mentre tu arrivi forte. Ma lui il segnale è buono, capito? È a fondo scala, però la radio è bassa, ma può essere anche dalla tipo dell'apparecchio, capito tu? Non lo so. Per me è una frequenza che non mi piace. Ma diversamente cosa vuoi fare tu? Però, senta, cosa ci vuoi fare? È anche troppo che stiamo chiacchierando qua. Andiamo. E allora, basta usare la 27, siamo tranquilli e pacifici e ci sentiamo tutti. Dove mi ascolti? Grazie! Eia! Ma che cantonello, boh! Avanti, andate a vedere in sera, boh! Sono sempre sperimentati, dai, sono sperimentali. Cioè, almeno si sbagano e si riesce a avere un qualcosa di buono. Quando state in livello culo di frigi, beh, avanti, andate a vedere in cinghiani tutti, no? Beh. Tu dici no? E allora? Ogni tanto si pone ne ha a murigà. Così Bacchisio, beh! Ma Bacchisio perché parla a voce bassa, Bacchisio, non è che parla come parli tu, mi stai gridando. Io ti sento anche se non grigi, sentomi. Bacchisio parla piano, così che tu sappati bene le orecchie, vedrai che lo sentirai, bene. Io te l'appoggio. A rumore la vuoi appoggiare? Questa con la direttiva ti sento perfetto, sei a fondo scala. La direttiva funziona molto meglio della verticale, della zona vostra. Io c'ho l'antenna dentro casa, si può immaginare? In casa che c'ho la direttiva come si deve, almeno quella. Ho messo la verticale per andare in 26, 27, 28, 1003, in 45 metri, capito? Ma sono la discola, ho piazzato, per quel motivo. Stavo provando, ho piccato in VEU. C'ha la stessa vendita da X700, quindi è a posto. Ma vediamo un po' se senti bene attore tu. Vai tu. Sì, a me già mi sente bene lui. Che se no ricordo voci. Vero Antonè? A lui ti sento bene, ci mancherebbe. Aspetta il telefono, 2 minuti. Aspetta, lo segnale è a fondo scala, la radio è forse, viene più di la tua, Giomari. Si forte della mia, Mi tocca abbassare, come te coso. Abbassa lei? Mi tocca abbassare le segne, di coso, di volume. Antonello, sai com'è? Io lo sento normale, però lo sento un po' cracchiante, non era perfetta la radio, però è il modo come parla lui, capito il tuo? Io a te ti sento bello, chiaro, perfetto, parla Bacchisio, lo sento un po', lui parla in quel modo, non tutti siamo perfetti parlando, capito? Magari c'è quello che ha un timbro di voce un po' rauca, c'è quello magari più chiara, e così via, ci sono tanti modi di... non siamo tutti uguali, capito? Quello sì, andava bene. Grazie! Io già lo sento adesso, Antonello, poco fanno, ma adesso già lo tiro pure bene. Ma come ha avuto la trentena, ha fatto bene. Esiste sempre già meglio. Senti, svegli, i facendi, accontenti, ti attendi. Consenti, torna, amico, la parola mi attone. Sai cosa è combinato, fatto? Ehi, se nasce tu pure, ne ha gabbisciuglia, va. Niente. Avanti, c'è un bacchisio. Ah, bacchisio ancora operendi, e tu? Quello sì. Andiamo, andiamo. Tre fatte io, tre fatte ciò. Tre fatte, 1,8. Boh. Io Gio Marie, mi sono fatto l'antennino per la macchina. Mi sono fatto, ed è uno di stazionari. Se pongo grosso, mi faccio uno di stazionari. Ho ballaggio bocciolista da 50 e mi faccio sempre uno di stazionari. Guarda, adesso usci, hai me l'ha tratto sia che per la 27 che per la per il PMR. Ah, puoi usare tutte, la puoi usare con per tutte e due. Sei canta lungo lo stilo? 50 centimetri. 50? Sì, 50 centimetri, è d'acciaio. 50 centimetri lunga. Io se dovessi mettere il PMR in macchina, c'ho la base magnetica e va bene. Ed è 1,1 di stazionaria. 27 nemmeno a parlarne perché non le metto in macchina. Oh, assolutamente. Là non metterò anche il PMR, se puoi immaginare, però qualche volta capita di andare magari fuori la mia figlia lì e mi porto la base magnetica e col PMR e chiacchierò, posso chiacchierare come faccio sempre, capito? Io ce l'ho lì ed è poco, va bene, capito? La ottava. Sì, l'importante è che arrivi, tanto quello lì, questa qua me la porto quando vado a San Giovanni a accompagnare a mio nipote e parlo da lì un'oretta, un'ora e mezzo, là. Va bene, so. Per la 27 io ce l'ho, mi sembra che sia 60 centimetri lo stilo, capito? E stazionari non ce ne sono, però non le metto, capito? Non le metto in macchina, no? 27, manca a pensare, no, da quando infatti ho avuto questa macchina non ho mai messo il baracchino in macchina, capito? Prima sulla Renault ce l'avevo sempre, non mi mancava mai, però con questa macchina qua non ho mai messo, ecco, penso solo in PMR qualche volta e basta. Arrivato sì, ma chi? Però parla forte, il modo che ti senta bene. Bene mi senti perché? Io ti sento bene adesso. Ok, dai, antenna esterna. Antenna in carriera. Avanti, signor dottore. Ehi. La stiamo andando bene. Quindi non sei riuscito a punirla a pusho. No, mi sono rotto, sono arrivato a 1,8 e poi è risalito a 2 e non sono riuscito più a portarla giù. Domani con pazienza si fa. Ho fatto l'altro, faccio questa. Tu immaginati un po' con quell'antennino piccolino da 15 centimetri. Antonello da campagna mi ha portato sino a Sassari. Sì, no, è così, già è così, sì. Va bene, vanno bene. Ehi, a voglia. Se non ci riesci, bacchi, fatti la fine come ti ha fatto lì da Mattessi, conmigo. No, ci riesco. Sbagliando si impara, ho capito. Piano piano, avanti Gio Marie. Ok. Va. Pascescia, più pascescia. Vedrai che riesci a tutto. I conti, bisogna fare i conti, c'è calcolare la grossezza dello stilo, la lunghezza del capo, E per forza viene il ricci, per forza. No, c'è la carica, c'è una bobina in mezzo, Giovanni, c'è la bobina e non sai da quanto è, capito? E così è, pazienza ci vuole. Babbo diceva, pazienza è quello primo. Un attimo, ciò. Siamo qua. Ma chi, piano piano. E vai. Dice no, va bene, ne buone un'altra di carica. Non so, ho perso le pene dell'inferno. E magari con quella carica non va bene, Bacchi, eh? Non sarà quella carica che non va bene, no? La carica mi è uscita troppo lunga. Capito, quando stavo facendo ci ho messo due giri in più. Allora dovresti diminuire, la dovresti. Non apribile. Almeno di due giri in meno la dovresti mettere. Neanche nessuno, tu la Giomaria. Adesso ti ascolto basso di radio, Bacchi. Beh, a posto l'ha messa tu. Sì, grazie. L'ha messa a posto l'antenna. Ah, domani, grazie, adesso ne ho voglia. Domani già riusciamo a sistemarla. Domani e un altro giorno si vedrà. Ehi, ehi, con calma, piano piano, sempre andendi. Già ce la fai, piano piano. Stamattina ti ho sentito da Monteoro, però non ho mai risposto. Evidentemente non ti sentivo, perché sentivo a Antonello, a Giulio. A te forse ti ho copiato, ma poi sei sparito subito. No, sentivo Giulio e Antonello, a te no. Antonello da campagna fino a Sassari lo sentivo sempre, a bomba arrivava. E poi stasera ho sentito a Leoncino anche, e nessun altro. Maria non c'è più. Sarà indaffarato. Infatti me l'ha detto Giulio che eri in campagna, così è. Ehi, ero in campagna, in campagna. Ehi, Giulio me l'ha detto, infatti gli ho detto che non si sentiva a darsi saluti. A Giulio gli ho detto. Ehi, lui lo sentivo. Giulio basso, ma lo sentivo. Chi arriva alla porta era solo Antonello. Tu ti sentivo, ma basso, ti ho chiamato, oh Nusa. Zero, riporto zero. Col gommino secondo dove mi metto in campagna non mi senti. Ero sotto la veranda, capito? Poi mi sono spostato e sentivo bene Antonello e a Giulio. Però era al centro del piazzale, capito? E a campo libero, se no niente. Avanti Tole. Aia, non andiamo dove andiamo, cavolo. Ehi, non è cavolo, no. E mi ritrovi. Ehi, andiamo a Roma a pesci, già è buono. L'importante è che andiamo a Dananzi. L'importante è che sia piena la panza, poi è tutto il volo. È così. Antonello, se n'è andato, così è. Nulla. E Marino, sentito si è? No, oggi non l'ho sentito. Oggi niente, nulla da va. Allora nulla, lavorando sto. Stavo in giardinaggio, così giardinaggio vuol dire. No, è che ma adesso c'è niente, che so, siamo lì. No, ancora presto per la sorella. Ancora almeno un altro 20 minuti, mezz'ora. Ehi, a Rubuggio c'è buone a fa. In Kosovo, in letargo va adesso, lo capito, adesso va in letargo perché domani mattina si deve voltare presto. Sì, vabbè, certo, non dico. Marino, mi sembra che stamattina stava parlando con Giulio. Senza prendere ordine, no, lui parla così con Giulio senza prendere ordine. E allora? La Carvalho, il piccino Berbante, gli passiamo i dischi, vero Tore? Allora, boh. Passiamo i piedi, non i dischi, i piedi. Ohia, andiamo a Benevento. Io in campagna ce l'avevo l'antenna, l'ha giocato tutto, Bacchi. se no prima già ce l'avevo l'antenna piazzata, ma ne ho smontato tutto. Sì, ma un'antenna per il PMR ce la puoi fare, metterla lì in campagna, l'antennino per il PMR, e almeno moduli tranquillo. E una per campagna piccolina già me la faccio, o se no me la compro e la lascio in campagna. Io stavo usando quella che ho fatto io stamattina. E meglio non ti sentivo però, sentivo Antonello a bomba e a Giulia a bomba lo stesso. Ma se tu eri col gommino, cosa puoi pretendere col gommino sentire una persona che trasmette con un antennino piccolo, no? Puoi ascoltare Antonello, Giulio, tutte quelle attore, a me da qua, però con il gommino nuda non trasmetti, è sordo. Col gommino da campagna, l'altro giorno, senti l'altra volta ero sceso, a Marino, a Bomboletta lo sentivo, lui col gommino e io col gommino. Ma ogni giorno la poppa fatta, bisogna avere anche fortuna, capito? E un giorno buono c'è la provocazione, si poteva andare. Oggi vuol dire non ce n'era e non si andava. Avanti to. Secondo dove sei con il gommino non ci arrivi. No, ma da dove sono io, a ottava linea orizzontale, siamo nella stessa linea, capito? Anche con Antonello. E Antonello arriva forte da lì su, Antonello spara da lì su. È tutto pulito, non ci sono ostacoli per Antonello. Dietro subito. Vada pure, dottore. Sì, lo fa, Runonfio, Hai compreso i bacchi? Sì. Andava a mangiarsi una coscetta di pollo che aveva stato da mezzodì. Già hai detto? Andate a mangiarsi una coscetta di pollo che è avanzata da mezzodì. Si è già mangiato la coscetta di pollo, non mi grido. Sono andato a ricassare fra Paoletta la coscetta di pollo e che hanno visto un bollo. Non hai fatto un bollo, grazie. No, io non ne posso un bollo a russo. È raro che lo faccio, già lo faccio, ma oggi niente. Il buon in forno allora, se vai al russo, il buon in forno e il buono a testi. Cioè io andiamo da Graziano a prendere il caffè. E prendiamo caffè Paoletta. E si chiude una caffettiera. Se si fuori il codivore a me, a te e a Edo. E noi vocimara. Ehi, il caffè me l'ha giubito stasera, due me l'ha giubito, ma di giri bene. Ma avrai qualche pezzo di cioccolato ancora, non ho finito l'hai. Ehi, accorcia bene, mi ha rinotti la cultura chicchiata. Ma che hai pensato a riunire un pezzo di cibo, non sei venuto a chiesa per non assaggiare. Moro bambino. Ehi, non si sa mai se a domani bisogno, compresa, allora giù ceci. Non si sa mai. Venga gli ospiti e si mangiano il cioccolato, a me non mi rimane, ci ho compreso. Capito, Tom, grazie per poco fidarsi. Grazie. Caffè. Che ci voleva là? Un bel caffè bello profumato, bello fumante. Oh yeah! Andiamo dove andiamo, bubù. Le bollicine va via oggi, Graziano. Oggi c'erano le bollicine. Anche quelle c'erano, bianche, belle frizzantelle. Poi dopo il caffè mi ho mangiato una bella pasta, bella ripiena. E allora dopo mi ho bevuto un altro caffè. E poi ti sei affarrato con l'insulina. No, anzi, prima di pranzo ce l'avevo 150. Presa hai dopo? Pasti, caffè, acqua, cioccolato, e dopo i pieni. Poi pieni, un bicchino. Da voi deve caricarsi il fosse di insulina. Ho navigato un calascio per no. Andiamo via, ah, grazie. No, stanotte mi tengo leggerino, però dai, mi posso un tè, due fette biscottate e un paio di biscottini col burro e la marmellata. Sì, la marmellata la burro si mangia. No. Anda via, anda, biscottini con marmellata, colazione, no cena. Sì. Salute, cosa ti fai, sono rotte? E poi, tanto per sgranocchiare mi mangio quell'altro pezzo di cioccolato. E poi vediamo, se mi viene qualche appetito, già c'ho quei biscottini, quelli leggeri leggeri, come si chiamano? Hai compreso. E devi aumentare, e se no ti devi aumentare di insulina a volte. Ah, le sfogliate, sfogliatelle. Lo fai prima, mangiate qualche cosa di più leggero, no dolce però. Sì, io per le sfogliatelle è meglio le sfogliatelle. C'ho quelle sfogliatelle che rimangono rettangolari, leggere, leggere. Imbevute con zucchero filante, quello bianco. O se no c'ho quelle a biscotti rettangolari, lunghi, cante un dito e sono leggeri, leggeri. Quelli zucchero sopra non ne hanno, sono col cream caramel. Ho sorpreso pure, andrà bene. E quelli super leggeri sono allora. Oh, sono imbevuti nel cran caramel, capito? Però sono secchi, non sono leggeri, leggeri, croccantelli. Dove? Via! Sono qua. Grazie, no, che se mi fanno venire la glicemia, sa me, fanno venire. Sì, io. Chiamo un po' fatto, e ancora venivo. Ancora un altro corso c'è da lavoro, per cui cominciamo a girare la banca. Oh, mi sono rimaste anche un po' di pasta, me le ho portate su quelle pasta. Ci sono due cannoli siciliani, due o tre diplomatici e la fritella con il buco. Buona la fritella con il buco, cioè buona quella disgraziata. La fritella col buco la lasciamo mangiare. Ehi, basta cucciolarla dallo zucchero. Ed è buona quella, soffice, soffice. Domani mattina quella lì, a colazione, è un bombon. Ah, e c'è rimasta mezza pesca, siccome erano pesche gigantesche, ce n'è rimasta la metà. Ah, ci so. Bisogna farla fuori però, non buttarlo, bisogna farla fuori, grazie. Ti posi vicino e te la mangi. Ehi, domani, stanotte non li mangio, già me l'ho mangiata una bella frutta e la bella manna, sta zia. Stanotte non sta. A digiuno in bianco stanotte, grazie. No, un po' di tè mi faccio, a digiuno no. Un po' di tè già me lo faccio. Anche io ho una cena stasera, sono con pesanti, aiuto a farmi un 200-300 grammi di pasta, poi vacca. Ehi, già andavi, no, a mangiare pasta, cosa così no, non ne mangio. Così, in bianco, senza niente, aglio prezzemolo e peperoncino e vai. Ehi, no, sempre di grido da voi, troppa roba solida. E invece col tè andrà più bene, vero Tori? Sì, ma mi si venne venire la glicemia, sa me se venne venire con questi dozzi. E mia sora mi ha mangiato due caramelle frizzi pernigotti, una limone e una l'arancio. Era limone dolce, era grazia. Mori, mi piace, non bea che all'interno rimane frizzantella. Ai, frizzantella, oh, sì. No, io c'ho il limone dolce. Ehi, queste gialle sono al limone, rimangono dolci e frizzanti un po'. E quelle all'arancio sono al gusto di arancio e all'interno sono frizzanti. E che razza è che cazzo fa frizzante, grazie? Caramelle, aspetti, dico il nome. Non la conosco. Mi dice che ci presenti da me. Io gli posso presentare il limone dolce. Che per niente un arancio o un mandarino. Bella du fur! Capito. Anda benevela. E Gian Maria non si è più sentito. Dormito ci deve essere. Sarà controllandoci ancora le stazionarie. Torri così. Ho detto che si stava sentando un attimino. Boh, non lo so. Se Gian Maria ci sei. No, non lo so. Andate così. Riprendete però. Sì, me la riprendo io. È stazionaria, diciamo. Grazie, sta incassando. Io già sono Gappuccio, quindi sono tutto a posto adesso. Anche io sono a posto qua giù. Domani devo fare un pulito. Quello della macchina va super bene. E se devo riuscire a far andare bene anche questa. Che cosa devi andare a prendere? Vedrai domani. Domani c'è la risposta. Domani mi ti dico sì o no. Capito? Prima domani mangio a pranzo, poi dopo pranzo gli do uno sguardo. Se va la prima va bene, se no domani sera. Abbiamo fatto altro. E abbassa. E abbassa via poco a poco. Ehi, signor Bacchi, devi aprire la lagosa e abbassarne dei due giri. Siccome hai visto che la tutta incerottata è crepata, ho trovato un tubo in plastica della stessa misura, si è centrato a macchietto e dunque la bobina è bloccata all'interno, non si esce più. E quindi se la devi abbassarla? No, la bobina non la devi mai toccare, lo stilo sale e scendi. Ma sai perché l'hai fatta due giri in più, gli hai fatto? Adesso ho accorciato il cavo di uscita o l'antenna. Uno dei due bisogna accorciare. Ma provo prima a accorciare il cavo. Ma non accorciare troppo, perché sennò... No, non fa. A meno che non aumenti il cavo. Perché se l'aumenti le stazionarie scendono. Sì, infatti devo tagliare il cavo, almeno 50 cm ne taglio, per ricompensare quei giri. Forciando da 50 dovrebbe esserci, e se no lo stilo. Ah, se mi hai detto che il cavo è da 2,10, dovresti aumentarlo da 2 a 2,50. È 4,50 al cavo. 4,50 è? Sì, il cavo è 4,50. Infatti lo faccio, quanto è l'altra antenna adesso? Prendo la misura e lo faccio quanto è l'altra. Lo taglio. E allora dovresti portare almeno come il tuo era 3,70, mi avevi detto. Quella era 4,30 mi sembra. O 3,30, adesso non mi ricordo. No, 3,70 era, quando l'hai misurato davanti a me era 3,70. 3,70 era, e allora fatti il conto, devo tagliare un metro. Venivo a dargli un metro e vedi. E se mi vuole allungato gli pongo poco di gatta che lì in collo. L'unica è così, me. O lo fai 3,50 o lo fai 3,70. Se no lo porti a 4 metri a vedere, a mano a mano. Sì, devi stare saldando. È una guerra. Se no bisogna fare un lavoro. Tagliare un pezzo di cavo col piede e collegarlo ogni volta. E allora dagli aprivo direttamente un metro, ne ridagli, e lo porti così. E lo fai da 3,70, lo fai. E vediamo un po' domani. cosa bolle in pentola. Andiamo via, andiamo. Grazie. Eia, dimmi, ero al telefono. Telefono, telefono. Ehi, allora, così, eia. Ma la sorte, ti intendi pure allo prescritto, Sì, la notte farà un poco, farà via, perché è libera il cielo. Ecco cosa è. Ehi, ne ha registrato una maglietta che era stesa. Stesa. Congelata, Ida. Ma no, anche è diventata detta, là. Ma vediamo sto Marino se ci risponde, almeno per un saluto. Marino, attento, dottor Marino. No, ho detto, le porte sono chiuse. Oh, Marino, col capo non ci risponde. Sarani magnena tutto magna. Sarani magnena di vivendi e buono tassicchio. Infatti gli anni sono serrati. Ho preso. E allora, lui, la domenica da Marino vi sarà un bel niente. Mandali qualche cosa, grazie a Marino, si esce dallo sonno. Lui, mi danno già va tutto Marino, va, già si diverte lui, tutti i giorni, che già è bello piazzato. Ehi, sto guardando i filmati. Tu, grazie, ne vuoi i filmati? Me l'hanno regalati, io ne posso molto perché non ho il corso da paesaggi. E cosa? Cassette. E che cassette sono? Porno. Sì, ma CD sono. Mi hanno dato l'altro giorno, ma sei, a Baita dopo io sono tutti porno. Hai detto, attacca di rapidi. Ma sono CD o cassette? Cassette, cassette stereotto. No, stai la parte giusta, le avevo regalate. A cosa, quello che c'aveva la pizzeria lì in via Magellano, ma avanno mi ha messo il soprannome. Quello c'era, c'aveva la pizzeria lì. E a Marco Calimero. E a Calimero, gli ha regalato un cofano. Quindi erano i buoni pornografici, tutti mischiati, nuovi nuovi. E una di là già ho detto, si rivolgeva chi c'era nella passata, ma dice, oh, dammi io, me la bai, già mi l'ha di tutti a esso. Vabbè, e poi ne avevo buttato anche altre. Figurati quanto una vita. No, che mi ha dato, ma mi sono nove, manco l'avevo fatto girare, nuzza, sono nove nuove, virginelli, adesso sono vergine, te ne diri. Ma poi ci ho fatto fuori anche il figlio, ne avevo due, cioè uno l'ho regalato, l'altro se ne ha fatto, cosa? Tanto Portobello non ne vuria, a chi oramai era sorpresa nei GD, dunque. No, non ne ha neanche voluto a Portobello di quei video. Ma con cassetta ha mai voluto. Non c'è più commercio con la roba, ormai è tramontata. E sono CD che vanno. Ma non ti credere neanche molto i CD. Mi stanno andando a abbassare la quota a Burulissi. L'era moderna bisogna andare. Avanti Tore. Sì. Ah, grazie matto. Oramai c'è tutto nel telefonino, Tore. Bisogna di comprare CD e queste cose. Ma digiti nel telefonino e vai tutto questo che vuoi. Ma sì. Tutto non si muove. Cosa volere, non lo so. Anda per. Così è. Boh. A me mi arrivano pubblicità pure, anche gratis, per un'ora, poi se li vuoi vedere mi smorza. Per un'ora te lo sbirci e poi chiudi. E a me me ne arrivano un sacco di impreati luci, forno, di tutti i mali. Bah! No, da me già non entra, sta tranquillo, da me non entra nei segosi. No, da me mi ha dato fatti bli bli, a baggio così al volo, sì sì, ma con ne guardo. Me ne arrivano un sacco, durante la giornata, via! E così ti ringraziamo, al volo, via, ma è una cultura dell'endi. Bene, bene, dai, io vi devo lasciare qua, dice, buttaci via tutto che mi fare. Ok, Graziano, salutissimi, buona serata, buon questo ancora, ciao Tore, salutissimi anche per te, guarda. Ok, ciao Bacchi, stammi bene, ci sentiamo domani. Anda bene, riprendi, grazie. Ehi, yeah, ciao Bacchi, già domani ci coincide. E anche io adesso chiudo, là. Ce la sentiamo. Ciao Tore, ciao chi è in ascolto. A domani. Ok, ciao, grazie, ci sentiamo domani. Ok, ciao. Ciao Tore, ciao Graziano, a domani.